Letture di Radio 24. E adesso che fare? Questa è la domanda che i manifestanti hanno rivolto ai nuovi leader della rivolta egiziana. Ma questi ultimi, saliti alla ribalta per i loro blog e i loro tweet infuocati, si sono accorti di non avere nessun carisma davanti alle decisioni pratiche. Insomma, Facebook non fa stato. L'Egitto sembra tornare lentamente alla normalità. È vero, in piazza Tahrir, il cuore del Cairo e della protesta antiregime resta presidiato da qualche migliaio di persone, ma si respira l'aria triste della sconfitta. Salvo sorprese, la resistenza ha perso. Racconta Robert Fisk, mitico inviato dell'Independent, che molti dei ragazzi tornati a casa da piazza Tahrir sono spariti, prelevati da agenti del Mukhabarat, i servizi segreti. Proprio quelli comandati da Omar Suleiman, il generale diventato vicepresidente, che guida il passaggio al dopo Mubarak. Il sogno di una democratizzazione profonda dell'Egitto, coltivato dall'ala più movimentista della rivolta, sta per essere archiviato da un regime che sa cambiare per restare lo stesso. Se mettiamo insieme il fallimento delle ultime rivoluzioni fallite in Medio Oriente, dall'onda verde dell'Iran 2009 alla Tunisia di ieri, all'Egitto di oggi, emerge una lezione disincantata. Twitter e Facebook non bastano per abbattere i tiranni. Strumenti potenti ma ancora acerbi sono mezzi straordinari di mobilitazione di masse. Non riescono però, non ancora almeno, a sostituire la vecchia politica e i denigrati partiti che dovrebbero fare da cinghia di trasmissione tra le aspirazioni della gente e gli obiettivi politici. Passatismo? No. Se non ci sono i leader, se non ci sono gli obiettivi tattici e strategici, le masse riempiono le piazze, ma poi cadono nella rete di regimi scaltri che hanno imparato nei decenni l'arte del compromesso per perpetuarsi. Regimi che sanno creare opposizioni al loro uso e consumo e sfruttare gli utili idioti. Lenin inorridirebbe a vedere l'ingenuità dei rivoluzionari di oggi. Certo, noi abbiamo imparato dal sanguinoso Novecento che il mondo nuovo delle vecchie rivoluzioni porta diritto al gulag e al lager, perché aspirando a costruire un paradiso sulla terra nega la finitezza umana. Però l'idea che un potere ingiusto si abbatte sfruttandone le contraddizioni con un'azione concertata meriterebbe di essere portata nel nostro secolo. Invece, a un certo punto, Piazza Tahrir sembrava un'enorme festa dell'unità, quelle di una volta. Canti, balli, slogan e vogliamoci bene. I leader saliti alla ribalta per i loro tweet infuocati scoprivano di non avere nessun carisma. Dicevano cose belle e interessanti, eludendo però qualsiasi soluzione pratica. Mancava il vecchio «che fare». È l'eredità di un mondo che virtualizza e smaterializza tutto, dove sembra che le immagini e i sogni siano la realtà. Il potere corrotto e smaliziato dei satrapi arabi sa che al di là delle immagini affascinanti e ipnotiche dell'universo della comunicazione, c'è un mondo di oscure forze materiali che ci determina molto più di quanto vorremmo credere. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Facebook non fa stato», pubblicato dalla Stampa di lunedì 7 febbraio, a firma di Claudio Gallo. Letture di Radio 24. È scomparso domenica, 97 anni, Giovanni Bollea, psichiatra e pioniere degli studi dell'infanzia in Italia. Dopo essersi formato all'estero, Bollea era rientrato in Italia per costituire il suo istituto d'avanguardia. Per favore, niente retorica sulla mia persona. Aveva ragione a chiedere maggiore sobrietà sul suo conto, Giovanni Bollea, il celebre studioso dell'infanzia scomparso a Roma a 97 anni. Aveva ragione di temerla, la retorica, perché correva il rischio di essere ingabbiato in una serie di cliché giornalistici, inevitabilmente facili. Dal vecchio saggio al professore appassionato, all'irriducibile idealista. Definizioni anche gratificanti, ma semplificatorie e riduttive di un'esperienza umana e professionale di prim'ordine. Che Bollea fosse saggio, appassionato e idealista è fuori di dubbio. Ma più importante è stato il suo ruolo nell'affermazione di una disciplina, la neuropsichiatria infantile, prima molto osteggiata, poi considerata negli ambienti accademici con qualche sussiego, infine anche un po' enfatizzata, come del resto negli ultimi anni sono stati enfatizzati i bambini. Sempre più si tecnicizza e si idealizza la loro presunta felicità. Un modo sofisticato per dissimulare l'ambivalenza dei sentimenti in un paese dove i bambini non si fanno. Bollea, invece, ha sempre avuto una profonda fiducia nei più piccoli, nella loro diversa modalità di guardare il mondo. Era convinto che sarebbero stati proprio loro, i bambini, a distruggere l'individualismo e il consumismo della nostra epoca. Ma di Bollea affascinava anche la considerazione e il rispetto che aveva per le madri. Secondo una lezione umana e scientifica, nel segno dei grandi innovatori negli studi sull'infanzia come Donald Winnicott e John Bowlby. Una lezione che si può sintetizzare così. La mamma sa come comportarsi con il suo bambino e in quel suo sapere naturale deve confidare pienamente. Tutt'altro che un'ovvietà, perché la madre oggi viene considerata, e quindi si considera, la maggiore incompetente in fatto di figli, mentre una quantità di esperti le indica perentoriamente il modo di partorire, di allattare, di fare le pappe, di cambiare i pannolini, di vestire, di sorridere, di vietare, di divertire il proprio bambino. Qualcuno, i soliti psichiatri americani, ha addirittura ipotizzato che la mamma sia facilmente sostituibile. Una specie di optional, visto che i bambini sarebbero in grado di raggiungere uno sviluppo psicologico normale con qualsiasi altra figura femminile significativa. Pacatamente ironica l'obiezione di Bollea, in un'intervista a Repubblica per i suoi 90 anni. «Non capisco proprio», disse, «perché si voglia attaccare la mistica della madre, quando l'etologia ha dimostrato che questa è una mistica delle specie viventi». Penso che le ricerche più recenti hanno fatto un enorme regalo alle donne, forse il più grande. Noi sappiamo che soltanto la madre naturale è in grado di captare i segnali del bambino e di dargli significato. È lei che inizia il neonato alle sue capacità cognitive, è dunque la donna che crea la mente dell'uomo. E quando poi scrive che di donne imperfette e sapienti ne ha incontrate moltissime, si coglie un'ammirazione tutta speciale. Bollea era però un uomo sobrio, meglio, un piemontese austero, di Cigliano Vercellese, che non amava dire di sé più di tanto. Si appassionava invece a rievocare gli anni in cui, giovanissimo allievo prediletto di Ugo Ciarletti, si lanciò nell'avventura della neuropsichiatria infantile con il piglio del pioniere entusiasta. Nel 1946 venne scelto, gli italiani erano 6 in tutto, per frequentare un corso di psichiatria a Losanna e più tardi fu assistente a Parigi, facoltà di medicina, cattedra di psichiatria infantile. Al ritorno in Italia, Bollea costruì dal niente quello che oggi è considerato un istituto di neuropsichiatria infantile all'avanguardia in Europa, in via dei Sabelli a Roma, nel quartiere di San Lorenzo. Un centro ora a rischio di tagli che lui ha difeso fino allo stremo delle forze. Anche in anni recenti Bollea ha continuato a lavorare, privatamente, e a farci sentire la sua voce indignata e lucida le tante volte che i bambini diventavano protagonisti di storie terribili. Ma era sempre infastidito che la normalità fosse tanto bistrattata che non facesse notizia. Implacabile il suo j'accusa ai media, soprattutto alla televisione, per quella che definiva l'insana passione di rappresentare le atrocità del mondo. E l'ultima associazione, di cui è stato fondatore e presidente, ha voluto chiamarla per ogni chiarezza Alberi per la Vita. Era convinto che battersi contro i guasti alla natura e occuparsi del benessere dei bambini fossero attività molto simili. Si può dire, senza retorica, che la vita di Bollea sia stata segnata da un incrollabile ottimismo, a dispetto dell'orrore che denunciava con un senso forte dell'impegno civile. «Ci ritroviamo immersi», diceva, «in un'epoca piena di paure, ma io credo che l'uomo possa ritrovare se stesso. La famiglia e la scuola costituiranno i due formidabili baluardi di una nuova rivoluzione». Si aspettava molto dal futuro, Giovanni Bollea, con quella sua aria giocosa da folletto saggio, senza nessuna simpatia per una certa arida intellettualità e i suoi narcisistici pessimismi di maniera. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Giovanni Bollea, lo psichiatra dalla parte dei bambini, pubblicato da Repubblica di lunedì 7 febbraio, a firma di Luciana Sica. Milioni di auto su 45 milioni circolano sul territorio nazionale sprovviste di assicurazione o con contrassegno contraffatto. Un dato che non è una stima, ma un dato reale fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ma è solo la crisi a tenere lontani gli italiani dalle assicurazioni e dai suoi elevati costi? Forse. Ma l'allergia alle regole che caratterizza la popolazione nostrana è sempre in agguato. In Italia bisogna essere fortunati anche in caso di incidente stradale. Non si tratta di un'affermazione stravagante, ma dell'amara constatazione motivata dai dati forniti alla Camera dal Ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani. Su 45 milioni di autocircolanti, 42 milioni sono in regola con il contratto di assicurazione, mentre 3 milioni circolano senza assicurazione oppure hanno il contrassegno contraffatto. E questa volta non si tratta di una stima, ma di un dato reale ottenuto mettendo a confronto le banche dati dell'ACI e dell'ANIA, Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici. Un dato che però si può leggere in modi diversi. Il più semplice e popolare è quello dei costi sempre in crescita delle polizze RC auto. Incrociandolo con la grave crisi economica che colpisce in modo sempre maggiore la famiglia italiana, sicuramente fornisce una giustificazione possibile all'alto tasso di evasione. Non a caso lo stesso ministro Romani nei giorni scorsi, citando valutazioni dell'ISVAP, l'istituto che vigila sulle assicurazioni, aveva parlato di un possibile taglio dei costi del 15-18%. Però, come abbiamo premesso, questa è la lettura più facile. Un'altra lettura più scomoda, ma più vicina alla realtà, è quella che questi dati confermano: l'allergia alle regole da parte di una discreta percentuale di italiani, anche quando si mettono alla guida di un'automobile. Un'affermazione confermata dal forte incremento registrato lo scorso anno degli episodi che hanno coinvolto i cosiddetti pirati della strada. Sicuramente apprezzabile quindi la denuncia del ministro Romani, ma non può e non deve rimanere un'iniziativa isolata. Ci attendiamo nei prossimi giorni, sempre incrociando le banche dati di ACI e ANIA, l'individuazione e la punizione degli evasori, per evitare che l'automobilista in regola non debba sperare di essere fortunato anche quando finisce coinvolto in un incidente stradale. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «L'Italia allergica alle regole, al volante senza assicurazione» di Andrea Balzanetti, pubblicato dal Corriere della Sera del 3 febbraio.